vicino al microfono. Attento gufo, che facendo c'è? Chi è? Sono voi. Molto zappato. E chi te l'ha detto che stavo molto zappando? L'uccellino verde. È vero. Eia, il tuo operaio. Oh, c'è. È finito. È tutto a posto adesso. Così che sto tranquillo. Ti ha mangiato tutto l'arancio quando tu eri girato di fatti. Buccia e tutto si mangiava. La voce ha mangiato di tutto il salato che fai. Che c'è? Si avviene poco un attimo. Oi, vede un me. Ma cosa che tu l'hai incarraggiato? In terra era pieno, mi si mette una lampada un me. Però ha incarraggiato tutto come se passavo con un motto coltivatore. Tanto che sono in terra, ui. Ho già venuto pure in campagna, già ce n'è già, anche un bel di mandarini ci sono. Ti mandi pure dell'anno passato lo mandarino, è buono pure. Lo mandarino viene la trovata, quest'anno. Quest'anno viene a posto me pure il mandarino. E mandaranzo pure a posto me. Però il mandarino, il mandaranzo, è da me che te l'avevo mangiato. Però chi si deve dire la punta, che ne fai? Ma se mi ci vira in terra, certo si vuole ammazzare a piedi. Ragazzi, mi dire, che pigliavano sempre da mesi, l'altro quanto che era già tutto rompito, capito? E che ci così pure ne ruba zia, tanto ne vara tutti in terra, se non ne ruba. sempre facendo, stiamo. Attento, cuffetta! Ciao Luca, ti ho visto alla Lido. Mi hai visto, ma va, ero con mamma, ero. Già l'ho vista, già, facendo la spesa. Perché lei voleva andare, buonasera, Gio Maria, grazie. Volevo andare alla Conad, c'era un tipo fuori, non so cosa stava piazzando. E gli ho detto, va qua, si entra, no, è chiuso. Ma vaffanapoli, ma mettete un cartello, no, mi sarei mai confermato. Via Gramsci. E allora da lì siamo andati a Lidl. Già lo sapevo che era chiuso, stavano facendo dei lavori. Già si pigliava pure la Lidl, no? Non c'è da scendere ancora la luce. Non so, Gio Maria, stanno... non lo so cosa stanno facendo. Rimodernando sicuramente, no? Sono scaffali, non lo so, vabbè, comunque. Ma all'interno stanno rimodernando. Allora, all'interno anche all'esterno? Non aggiunge nessuno all'esterno, capisco, anzi. Cosa, Gio Maria? Io all'esterno non ho visto nessuno, sono all'esterno, magari saranno tutti all'interno adesso. C'era uno con il trabattello, non so cosa stava facendo, stava avvitando qualcosa, non lo so. Magari stava mettendo qualche telecamera, E vabbè, ormai è già fatta, dai. Eia. Avanti, grazie. Va via. Un catalogo della... come mi pare di Bosch d'Oro, hanno lagato. Volevo guardare, c'erano un bel cosa in offerta. Oh, grazie. Comunque quello di Porto Torres. Vetri non è vende di stufa a pellet. Non è vende? No. Siamo andati dal vetraio a farselo fare. Tramite un amico, un collega suo di mio fratello, gli ha fatto 35 euro, se non era 50. Ma il vetro ci vuole quel vetro per alte temperature, ma per la stufa? Di quelli ad alta temperatura, allora, sono, come si dice? Me l'ha detto, sono Sì, comunque quelli, dai. Temperati sono quelli, per il calore, capito? A che ci pare un freddo normale si scoppia. Ci vuole il vetro temperato per alte calorie. Sì, per alte temperature, sì. È temperato, allora. Allora, un metro quadro costa all'oro 500 euro, vedi un po'. Comunque dico che ne vendono tanti di questi vetri. Lo so, no, a me me l'aveva portato, è arrivato direttamente dalla fabbrica. Anche il portacenere che gli avevo ordinato. Sono arrivati dalla fabbrica direttamente, chissà bene, o avrei risparmiato, me l'avrei ordinato io dal computer. Perché ho guardato nel computer e so dove la fabbrica adesso in continente, a Modena. Dunque, la prossima cosa mi segui, me la ordino direttamente tramite il computer. Capito? Posso pagare anche con la PayPal. Gli do il codice dal catalogo della stufa e mi arrivi chi ciò che voglio. E pago di meno. Lo so. Vabbè, comunque. Aspetta che spengo la radio qua. Ecco qua. Vabbè. Comunque, perché glielo fa il cognato, cioè, è il cognato di mio fratello, però un tipo lì a sorso 50 euro vuole. Poi ci è venuto qua a Sassari, vabbè, alla fine poi ci ti fa un giro di conto e te la porti in benzina e dici di no, ma vabbè. Ehi, vabbè, là, ti porta il vetro, te lo piazza, è tutto, già, andà bene, a Puglia e andà bene. Io non mi ricordo, c'è la fattura, sia del vetro, che quando mi ha messo il vetro mi ha messo anche la guarnizione nuova del portacenere, cioè, io non ce le butto le conserve insieme alla documentazione della stufa, le metto lì in mezzo, capito? Così in caso un domani se mi occorre guardo quanto avevo speso, so già all'incirca cosa costa. Lo so, vabbè, dai. Riprendi Gio Maria e su mi festo, perché tra un po' usciamo, devo andare alla Usciana a prendere il collare per il cane, quello per le zecche, dai. E riprendete voi, dunque, c'ho gente. Anche già le zecche, visto. Sì, vabbè, grazie, dobbiamo andare a fare una commissione, poi tra una cosa e l'altra, capito. Magari adesso costano di meno anche, già è buono. Solo che quelli hanno una scadenza, devi guardare la scadenza. Durano 4 mesi e costa 5 euro per il cane piccolo. Sono in offerta, capito? No, io lo prendo sempre quasi al periodo. Lo prendevo, mia figlia li prende per quelli di campagna, per i cani suoi. Già andava, dai, già va bene. Eia, che andava. Così è, freschetto sta iniziando. Ma che freschetto, ci sta bene. Ma... Ehi, adesso, ma... Cioè, ho composto di avere la luce. Avanti a sentire l'aria, che fredda. È fredda l'aria, buh. Sì, l'aria è freschetta. Mi si tacciare i rovini. Oh, non lo so, non... Non lo so, grazie, ma non posso acciaracchi, non posso, non aperto nulla. Cambia. Ma io grazie, ci vieni, scotta. La capisci, non è per me, finisci che si tempi. Non è parte persa, si è per me, per carità. No, non vado neanche dove va Paoletta a ballare, non lo sai quante volte me l'ha detto. Pure l'amici. Non ci vado, non mi piace più. No, di sempre la baita, ti boti, la capisci, non mi tarissa. Qui devo stare a casa, là. Oh, non mi piacciono più queste cose. Prima era un conto. Oramai, cosa? Boh. A vedere quattro iardini, vabbè. Cristiano? Ciao, Cristiano, ti sento. Come senti, Cristiano? Sì, che ti sento, insieme a Luca. Dove, Cristiano? che si è attentato Gio Maria, c'è gente. Graziano. Ehi, mi sei? Attenzione, Graziano. Marino, mi senti? Graziano. Marino, mi senti? Marino, lava di Alec, mi senti? Sono me il soldo, regaliamo ampli formulari da Natale. Marino, lavati le orecchie. Non mi senti? Evidentemente non c'è ricezione. Sto provando l'apparecchio, Graziano, ascolti adesso. Io ti sento e tu mi senti. Ti sento male. Come... Adesso sei uscito tutto scorreggiato. E vabbè, ci sentiamo dopo, Graziano, dai. Eia, guarda che sei uscito scorreggiato. Marina, ci sentiamo dopo, per un controllo. Sta arrivando forte e chiaro, come va chi? Eia, buonasera, Graziano. No, aspetta che vado su che attacco l'altra antenna. E mi dà un controllo come sto uscendo. Ehi, Marchisio, come mai già finito di zappare hai? Male! Luca, ricordati di metterti anche le mutande sotto i pantaloni. Ho fatto come un tecito che andava da produttori, dice che va via il pistolino blu. E chi ti ha detto che è andato in cancrena, bisogna tagliarlo. E lei è preoccupato, mettiamo una pompetta. Dopo una settimana, cazza, gli dice con i jeans e con i cosi, che senza mutande sotto, no? Anda, e dopo una settimana, aspetta che mollo? No, un yo-yo blu, dice, questo qua li fa, dice un yo-yo blu, e il dottore, anche quello lì bisogna levarlo, bisogna tagliarlo, è andato in cancrena. E poi una pompetta. Dopo una settimana arriva di nuovo e fa, anche l'altro mi aveva dato blu il yo-yo, dottore. E chi tu? Mettiamo una pompetta. Una settimana ancora. Passo un'altra settimana. E va dal dottore e fa, dottore, anche la pompetta mi è diventata blu. Allora fa una cosa, non usare più i jeans. L'avevo già sentita, stamattina ti ho mandato un video di Pierino, boh, non l'ha dato, ci ha visto, e rompi. Adesso te lo mando, di Pierino. Vabbè, non l'ho saputa raccontare, però chi l'ha raccontata, guarda, avvicinante. Praticamente che tu si è fatto tagliare tutto e poi occupato dei pantaloni. Aspetta, ti mando questa di... Il Lino Pampi, c'è, cioè, e Pierino, c'è, cioè, vanno a mano, non è che auro, ti fai due risate, aspetta, lo sto cercando, allora, qua, guarda che te l'ho mandato. Aspetta, grazie, sono in cameretta ancora, il telefono è in camera d'aria dove sta caricando. Eia, te lo mandate annebbiato. Attenzione Marino, mi ascolti? Attento Marino. Grazie. Ma chi non è? Dimmi. Nulla. Non volevo un controllo da Marino che è lontano, se che questa antenna va o no. Dico più forte, va chi avanti. Ok, com'è che Marino questa antenna? Attenzione utile, come segnale sta arrivando forte lo stesso. Io sto utilizzando l'antennino tuo piccolino che ho messo ieri sul tetto, avanti. Ah, tu stai andando con l'antennino? E quello autocostruito tuo, quello piccolino che ho messo sul tetto. Sì, sì, a fondo scala. Fondo scala. No, va bene, dai. No, perché adesso le sto saldando, sto qua un salto al piccolino e sto saldando il PL. Così vedo se c'è qualche prunga, lo butto dentro, dai. Ok, ci vediamo più tardi ragazzi, dai. Avanti Bacchisio e quelli che per me un attimino, dai. Ia. Ciao Marino, sentiamo poi anch'io, vado giù perché qua c'è freddo. Me ne vado giù che c'è la stufa accesa. Ciao a tutti quanti che sono su questa frequenza. Bacchisio vi saluta e vi ringrazia del permesso che mi avete dato. Ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ehi, ehi, Marina, adesso ti senti un po' bene. Ok, va bene, Marchizio. Grazia. Dimmi. Sei l'ultimo, Grazia. No. Lo squalo è uscito fuori dall'acqua ed è morto. A chi? Non vedrà, ma salata. È andata a finire un laghetto con le vadozze ed è annegato. A che più pesante le vadozze. Adesso non abbiamo più lo squalo bianco, abbiamo lo squalo nero. Poverino, mi si dispiace, ma era bravo. Andrea Dolomite era un bravo bizzino. E davvero non sognava mai. Che è morto Grazia, buonasera. Vedi che Grazia che c'è Tore, buonasera. E qui parlando male dello squalo, va. Avanti c'è lo squalo. Sì, catta, bebù. Anche dove va a tenere la domanda non risponde. Non affida coltelli su internet. Laser San Prende. Affida coltelli con una mano solo, in tre mosse. No, non ho compreso nulla. Solo hai capito qualcosa? Sì, già l'abbia compreso, l'abbia fatto domani. Ho detto che ho visto qua su internet un affidacoltelli in offerta, pari una bomboletta a laser, bastano tre mosse, passa il cucchietto ed è arrutato. Allora Tavo, vento quanto ne hai? Cos'è Bacchi? Vento quanto ne hai lì? Ah, poco e nuda. Aspetta, se un vento non lascia nulla, no? Tutte le sabbastie. Noi siamo più esposti al vento. Siamo più esposti al maestrale se si magna. Ma ha calato, va. Ha calato. La notte cala, che domani piove. No, che devo andare a Olbia domani. A Olbia domani mattina. E allora parti presto? Verso le 9. Alle 9 parto, alle 10 e qualcosa sono lì. Ho capito. Vabbè. Anche quello bisogna fare. Capito, Grazia, torno domani in tournée. Buona passeggiata, il cagnolino ti punta. Sì, perché poi da lì c'è uscire a Cosoine a vedere chi d'altra. Allora si diverte anche il cagnolino. Cosa vuoi fare? C'ha diritto anche lui di divertirsi. Solo che mi devo tenere un'ora posata da reddo in macchina. Se no si stufa. No, ma come è bocciatino qui? Lo devo portare, mi ha già preparato il cofano. Non ti fa compagnia, capito? Ma mi tocca tenermi un finestrino di un abisso. Li lasci, le un microfono vicino e i cuffi. E i braggeggi. Così parla con noi, vero Grazia? E allora, li buoni i cuffi, l'autoparlante, e ci fa una chiacchieratina almeno anche lui. Quando vai? Parliamo in verso canino. Bene che me ne lasci dato. Siare Civini. Io credo Civini. Dici qualcosa tu, Bacchise, in verso canino. Io no, domani la sentiamo. Se la porta la radio, te la porti do. Fai un chihuahua. Ti rispondono quando ti chiedi le cose, è segreto A chiamare per niente un chihuahua oppure per un becchinese. Si deve una scena, zitti. Ma è Gian Maria. Come al solito arriva sempre gente a quest'ora, che gli dà la merenda. Ma intendete la vita? Era qua 10 minuti fa, ha detto che arrivi da niente e gli tocca fare un caffè e le fare pasticcini e col caffè ci vuole il dolcetto. Stava via di altro, no? E un poco d'arancio da campagna, burro, un poco di dolci. Poi c'è il limone, burro. No, è marro, il limone burro è buono, mi bacchi, a me mi piace. Ma ti piace? Il limone senza gordo? Così, a mangiarlo senza zucchero. Ehi, io me lo mangio burro così il limone, a me mi piace. Pure se è aspro, me lo mangio lo stesso, è buono. Io aspro e dolce. A me già mi piace. In campagna già c'è l'albero. Non è sempre che mi lo mangio, ma già lo mangio. Ma lo buccio me lo mangio come l'arancio. No, io se lo mangio, mangio buccio e tutto. Buccio e tutto. Chi su denaro denaro, una buccia fini fini, chi ci me lo mangia a mosse così, buccia e tutto. Quello è buono lo stesso. Fa anche bene, fa. Capito? Fa anche bene. Avanti, to. Uioia. Andemmo e andemmo, bubu. Sì, per Marino che c'ha il fendi, e prende la saldatura, Marino. La saldatura è fendi? La cosa? Cosa in riparazione? A filo continuo, Ma cosa si sta dicendo, dottor Gampo? E te, dottore, che ti facendo? Sempre facendo, e tu dormito sì. Che facendo c'ho io? Dormito sì. Io sono pronto per uscire, pronto, oggi mi tocca, dai. Dottore! Ehi, grazie. Allora da posto i pantaloni con i montanti sopra, Luca. Vabbè, ma così più bene. E a chi ti si fa più caldo così? Luca, diglielo tu. Diglielo tu, Maria. Lui. E Flippero, l'arancio l'ha imbuffato. Ha preso me in bagno. Sei che più morto che vivo, Ma c'era sempre Magnini, due arance si ha mangiato, camminando e Magnini, ha morso un vitto. Ma manda un messaggio, non va via, che c'è mia, se con 160 mi pare. Io non credo, con tutti gli arance si ha mangiato. No, io me ne ho mangiato uno, dopo pranzo, sanguigno, buono, dolce, dolce, era. Però la glicemia non lo so a quant'è. Se non vai non conviene controllarla, che da buoni milioni in prammo. Vabbè, dai, signori, buona serata e divertitevi, mi raccomando, Fate da bravi, se no, ciao. Fai da bravi, dove vai poi a mangiarti il giro di pizza? No, da Luca sono invitato, ciao. E ti date l'arancio, o le gocce di pollo. Ali di pollo mi sta facendo arrosto, sul terrazzo, ci vado da una mano a arrostire, dai, ciao. Fatti buonica che concetta, sempre ali di pollo, ciao Luca, buonasera, a tutti gli altri di cagata ne ritira l'ali, Tore. Cosa vuoi fare? A che ti crescinare tu burro? A che dici così da voi? Lo vorrà, ne ripiglio prima. Ma chi? Ehi, grazie. Stavo ascoltando se c'è qualcuno che voleva entrare, ma non c'è nessuno. Manco un'anima, Nessuno. Ma metto quando ero un bicinotto, mamma. La macelleria di Gagaia, Tore già si lamenta. Non so con Bacchino se si lamenta. Cagaia, con di tutto, va via la macelleria, ruati dolci. E ho c'era un tabacchino della buon'anima del signor Renzo Muglia. C'era la macelleria sua. E a mamma ridazia le zampe di Iadina. E mamma ricucinava con un sugo. Morimi! Fanno brodo ridazia, visto. Ma fanno brodo, grazia. Mamma faceva anche il brodo, però le faceva anche con il sugo. Oh, e con il sugo, adesso poi le buttia da poi le buria lo sugo, adesso poi che arrivò, le buria no prima. È buono, no, il sugo, il coso, non c'è nulla da mangiare, però se fai il sughetto oppure fai il brodo, c'è qualcosa di gusto. Ehi, cagagliaro chiamavali, adesso mi ha assegnato. C'è di aiuti, mi, dalle parti tue, mi, che c'aveva due figli gemelli, adesso mi ricordo il nome, te lo ricordi, Bacchi? Antonio si chiama. No, si chiamava perché è morto, poverino. Poi di soprannome lo chiamavano Kikiriki perché era balbuziente, per dire una parola che non ci usciva, capito? Kikiriki, ci veniva a Zano quando era nata la Diana, stava un capo via la buona mamma di mamma e gli diceva balbuziente, si rifaziava un caffè, mamma per rifaziare si buttava. E vedi i ciamboli, razza, i zampi degli addini, i fegattini di pollo, con le pance, capito? E mamma li cucinava. Vabbè, tutto il lavoro, grazie. No, c'era dei Bonculi, Kikiriki, era un bravo macellaio. Già l'ho conosciuto io da ragazzino, era bravo, no, a parte che era... Barbuzzetti, ma era una persona brava, eh? Non c'era niente da dire. Però faceva ridire quando chiamava mamma. Dai, osso, mamma si bisciava sotto, anche cominciava a barbuzziare, no? Cazzo di... E barbuzziava perché si stava a cliccare, si prese scia. No, lo vedevo che stava a fianco al garage da me. Giannuario invece fa il camminiere, no, il barista in via Giovanni Pascoliera. Capito? E così era, no? Già li ho conosciuti tutti e due, già li conoscia già. La moglie conosciuta là, c'è la cabina. Sì, perché veniva lì alla macelleria, allora di chiusura. Sì. È una brava persona anche quella signora. È sempre gentile stata, se ti vede da lontano ti saluta. Ehi, è morta pure lei. Morta anche la moglie era. Viva c'è la cabina, è viva vegeta. Ah, ti era malato, però, ehi. Ti era malato dal corso, dall'alcol. Ehi, che anche tazzetta gli ha la vasia, pure macelleria. Però ubriaco non l'ho mai visto in macelleria. Si svegliava l'udito, si intagliava. E la macelleria l'ha avuta anche qua vicino a casa. Già lo so già. Ma l'ha avuto macelleria, già. Già me lo ricordo. Un bel anno è morto. Che era morto non lo sapia io, paro. È morto per un po' di anni, c'è Antonio. Almeno 6-7 anni. Minimo. Eppure se trova, c'è la cabina davanti la chiedo. Ehi, io lì dobbiamo mettere con i cia tutti, la famiglia Porco, Abuziano, l'altro fratello, tutta la famiglia, anche le sorelle. Io a scuola venivo lì, in fondo a tutti, dove c'erano le scuole elementari. Ehi, ma le conosci tutte i Porco? Dal grande al piccolo ci hanno dato... il grande, no, la femmina è grande, Giovanni mi piaceva secondo, che il coso faceva il muratore. Tutti li conosco, con me era Bustiano che era a scuola insieme a me, nell'elementare e nelle medie. Ma anche il bombolaio che c'era lì conosceva, anche quel padre che è morto, anche... a Corso, quello del bar, cosa si chiama? Lì ho conosciuto il padre, tutti, il vecchio babbo in Dio, lui vera, c'erano le scalinate, mi era tutto arrivare ieri, quando io sono venuto a buttare il latte dolce, era tutto lì vecchio, anche lì giù, non, era tutto campagna. Infatti, allora io quando sono venuto al latte dolce, case non ce n'erano, c'era la casa, la villa di Doppio, quella vicino alla pizzeria, la casa dove fanno le analisi del sangue, è buio la sera, ah, giù dove adesso la locomotiva c'era un calciofaglio, c'era una casa, e dove ci sono le scuole. Caduto, sì, già lo so già, c'era anche la blocchiera di De Santis, ci andava a lavorare in quella blocchiera di De Santis era. Mi facevi a vedere invece di andare a cura andassi a fare blocchetti. A blocchetti. A farli. E poi la sentivamo tutti in quel piazzale. Mi pare mi dati a 200-300 euro, ma euro, lire, tutta la di Dunia Mazzo. Mi fate a veglia e andate a gli da voi, con chi si dinamina andate al botteghino di Sanna, che fai la rubigliardino. E mi frattavi chi vede, no? Capito. E vecchi tempi sono grazie a... Ehi, con 5-10 lire giocavi a biliardino, mi pigliavo una caraffa di vino, allora amici, impararsi due o tre amici miei, e ci passava a mirare i chili, nel botteghino di Sanna. Botteghino, allora il botteghino era vicino a casa, nell'angolo. Ehi, poi sappia tutti i cugini. Ce n'era anche uno dietro di Buttichino, che fa ad angolo quella via, via dove c'è il capo, dietro il Barsanna, là diciamo. Oh, non l'ho conosciuto, non me lo ricordo quello lì, no, quella via. Non me lo ricordo proprio che c'era Buttichino lì. Oh. Facciamo parlare anche a Tore, se no ci dice che stiamo monopolizzando. Avanti, Tore. Buonasera. Tore. Io sono Ginoghi. Certo, fa vedere che c'è che abbai i denti. E tu non vai andare lì al botteghino, al battidozzi? Oh, poco vado frequentato, poco e nulla, si può dire. Salivo al centro a trovare gli amici. No, io andavo in quella zona per lustrare, tutta la zona mi perlustravo io. Ma, ce ne ho fatto un e due di girati tutta la zona, i nuovi, grandi raggiunti, per carità, ero sempre a zonzo, ma arrivavo un momento lungo coi assecchi, quei secchi di tinta bianca, mi pieni a bocca, poi babbo la vendia. No, io me ne andavo al centro, in via Università, al bar che c'era lì. No, io quando salivo a Sassari salivo in via Roma, dove abitavo prima, lì su ai pompieri che c'aveva amici, e dove ci sono i pompieri, via Napoli, quelle zone lì, allora anche lì era tutta in costruzione, e a Ruvangazzo c'aveva amici, andava anche a Ruvangazzo, via Oriani, e chi viveva nei villetti ed era tutto campagne. Ma di cosa tu l'hai frequentato i siciliani? In via Rosello, da Siamo Peppe, si chiama Peppe e l'altro Peppe, non mi ricordo l'altro nome che c'era, erano i due fratelli. Erano siciliani, c'era la Lucantina, il bar Lucantina. E Sassari Vecchio, i bar, i vendioni, i circoli, tutti i cusori me li vazia. Spesso stavo in via Usai, da Zizzo, nella Painelli, in quella zona lì stavo il più là, però anche più giù al corso, tutto già sarebbe un vasile, avevi amici dappertutto, ero sempre a zona, sempre in giro. Vagabondo, sono vagabondo così. A piedi, da poi che ci va via la moto non ne fa vedemmo. In moto si sia pure a Pulci d'Orra, a Sintino. Uni andati a mi fasi a amici. Cos'è io ti chiamo al grocco? Babbo mi dice tu sei un delinquente, se non vi sei mai uni ieri. E bigiavo e mafiavo e faria. Capito, è il dottore, Graziano, cosa fatica? Sempre in giro, a travagliare un buco. Io no, io dici allo centro, mi devi stare al centro. Mi rimanevo lì sino a tardi e poi rientravo la notte tardi. Sì, a travagliare. Sono andato anche a imbiancare appartamenti mi, ed ero in quinta elementare. Invece di andare a scuola mi andavo a imbianchinare. Capito, facevo i capolini. Allora le cose, nello stato di quinta te l'hai dato un momento, ma impegni. E allora? No, non vedo mai a cura, anzi, ma a me sta della sala a cura, allora decido abbassavo io altre tre o quattro, con un buccione di vino, e un altro di cura ad ogni volta dal balcone, e lui era via in temperatura. Vimpercello io, adesso uccello io allora. Birbantello io, ci hanno combinato là, però mi divertivo allo stesso tempo. E cosa vuoi fare? Si scappa solo una volta a macchina. Vabbè, si vive solo una volta, poi via, così è to. Precoso. Registrato il break, Gio. Grazie, dillo avanti però. Se gli ho registrato, avanti break, Gio. E allora, se tu mi dici non avanti io non posso entrare, scusate. Stavo dicendo, buonasera Graziano, c'ho Bacchino, c'è anche Tore. Tore, al cinema dove andavi? Al Rex o qua all'Astra? quella era la domenica. Gandovera la domenica. Gandovera? Avanti, signor Bacchisio. Signor Bacchisio. Io al cinema andavo, al film della, al cinema della chiesa dove c'è il tabacchino adesso. Poi sono andato allo Smeraldo, al Rexi, alle Quattro Colonne, al Virdisi, al cinema Astra, a quello del Corso, al Ferroviario, tutti me li facevo. Ma è più bello di la verità, oh grazie, è il Rex oppure l'Astra, o uno o l'altro, di la verità. Ehi, anche il Rex, anche lo Smeraldo, lì in quella via prima del re, di arrivare al Rex. C'erano belli, mi ricordo c'erano quei film dei romani, gladiatori, poi ci di un periodo di Kung Fu, che vera cemme. Te ne ricordi? Vabbè, lo Smeraldo è nato a ultimo, comunque lo Smeraldo, lo Smeraldo è nato a ultimo, gli altri c'erano, il Rex moderno, l'Astra, le Quattro Colonne, c'erano sempre. Signor Bacchisio? Io, Quattro Colonne, tutti si facevano prima sì, ma vanno fatta più nessuno. Quella te ne sai, Marino, la piccolina? No, c'ho l'altra, perché ascolto, c'ho una prolunga troppo lunga, forse mi perde il segnale. A te t'ascolto, aggraziamo l'ascolto un po' disturbato. A te t'ascolto pulito. Aspetta che la provo un attimino, dai, e mi dice se sto uscendo, dai. Dai, prova, facciamo. Tore, avanti, come ascolti tu a Marino? Guarda in questo passaggio, Bacchino, ascolti? Io che ti ascolto, come ti ascolto sempre, un po' più basso di segnale, però di radio sei buono. E va bene, allora sto usando il quarantennino tuo, va. E io già lo sento, a Fiatore e a Marino. Poi c'era un periodo che davano i film porno, vietate a minorenni di 16 anni. E per quello te l'ho detto io, tu andavi a Rex oppure andavi all'Astra. Ok, cambia parecchio, ma chi? Facevo film di porno, ma porno, poi vedendo i dusci e la sua censura. E intanto una volta la maschera non mi ha fatto entrare. Perché sei piccolino, grazie, dai. Ma io ero di pittoso. Adesso ho già giubbato. aiutare il Polato che vira una bomba. Sì, no, sono andato a mandare tutti voi a dare un giro. Quanto sei cattivo. E allora la maschera, diciamo la maschera, il cinema, quello del, diciamo il Rex se ce l'aveva in gestione, sia con lui, quello che abita in Piazza Botto, che adesso è morto, il padre di Walter. Lo ricordi a Walter, oh, grazie? Sì che me lo ricordo. A città non mi fa entrare, avanti lo do qui. Ed ero ridendo in accanturata e gli vive a Pasqua, ma erano tutti in carriera protestanti. Quanto sei cattivo, avanti Tore. Sì, certo, mi sopravvamo due di uno con l'altro. Bobo, che ti graziamo, non ha cosa nulla. Certo, lo fai mancare tempo alla fine di papà che hai già attaccato. Passiamo, c'è il dito facile, avanti, ma chi? Io. È migliorato al 100%, di segnale. Al 100%. E vabbè, questa è l'altra, ma chi? Questa è quella che sai, dai. La bianca. R. Il segnale più forte. Capio. Avanti, grazie, ascolti bene adesso, sì. Sì, con questa sì, quella di poco fa è tutta a tratte, non si comprende nulla, tutto un macello, un patatrac. Quei tempi erano belli però, Che tempi, già. Tempi che furono, erano belli sì. Quei tempi però avevi anche qualche... eri anche più piccolo e così via. Invece Tore era sempre grande, vero Tore? Tore che ha avuto la sedia, avanti, siamo da chi? Tore sta guardando la TV. Tore sta guardando la TV, perché ci sono le donnine. Buon gustaio, Tore, buon gustaio, vero? A chi l'amo devi pulire il gamberetto e lancia la lenza con il gamberetto, se no lo abbocca subito, Tore. Sì. Me non mi va a far vedere mai, vabbè, io devo chiudere che sta andando dalla signora, ok, ci sentiamo dopo. Ok, a dopo tu. Ripresi Bacchi. La porta è aperta. Andiamo, dove andiamo? Beh, chi ripiglia Marino, ripiglia. Sì, sempre a me tocca, ma giocare va a vedermi. Già mi sento male. Ah, io dimmi il menù per domani, grazie. Abbai a te l'amo bongo, il bruco bongo, beh anda. Anda ve, a me non mi futi, grazie. Anda ve, bubu. Ma chi? E tu cosa vuoi? Niente, grazie, niente, se no dopo ciò che facciato. La bocca, da. Ma chi già sei poco delicato oggi, Bobo? Io con nessuno. Capita, ma forse stavate parlando in due. Eri tutto frusciato. Andiamo. A Giomaria va a bucare, pulimmo uno scarafaggio. Giomaria è in ferie a Costa Azzurra, per quello non entra. Giomaria mangiando i panettoni, dolci e dolcetti. Panettone fa male quest'ora. Panettone. Lui, cosa possiamo fare? Ma che bei tempi però, Maria, di la verità che ti eri voluto andare tu, eh? Io sì. Allora sì, avevo provato con quella che dice tu, quella che abitava vicino a te, eh? Buon gustaio, e sì. Non ve la surughissano, tu hai gustato quella, ma ce n'erano altri limiti di gustaglie. Lo so che sono altre. Non sei butti, Luccino? Anche lì, in quel palazzone dei cinque piani, anche da lì ce n'erano, mi. Casalinghe, buon gustaglie, caspita, Ah, la cinque piani conoscevo, una famiglia completa, io, figurati. Ehi, allora è quella che conoscevo io, che mi baciava pure la mamma. Non si dice. Si dice peccato, si dice peccatone. Ma io il peccato l'ho detto, il peccatore non lo cerco. Ma ce n'erano un bel anche lì nelle villette. E davvero fa vedere dalla base di sopra. Oh yeah! È un bel divertimento. A me mi piaceva giocare al dottore, figurati. E allora io non mattesse, si ribusciavo giù sotto scala di un barazzo. Vieni a cercare le forme che viene, avanti, va chi? Così. Bene, dai, ne approfitto che continuo a fare quel lavoro che stavo facendo. Ci sentiamo poi, magari Marino e Graziano. Vorrei che ci sia un attimino per me. Ok, Bacchi, ci sentiamo dopo. Comunque la modulazione è bella pulita, eh. Bella pulita la modulazione, senza quel reme, niente, bella, bella. Avanti, Graziano. Ehi, Bacchi, già siamo qua. Ok, ok. O se no in quella stradetta per salire ai Salesiani, lì non ci sei mai andato, Mari, o nella stradetta per andare al castello dove c'è quel negozio di mobili. E chi l'ha detto non ci è andato, al castello, dietro al pintore, fai la salina e scendi giù e sali su, così è. Ehi, anche lì alla BDV, dimmi. Ma i ghibi dove c'era il rifornitore di... ho capito cosa stai dicendo, sì. Guarda, io qualcosa già ho fatto, quando la scusa di fare quel trabacco che tu sai, già non mi posso lamentare, va. Graziano. Marino, mi assento 10 minuti che si è morta la batteria. Dai, così mi finisco anch'io qualcosa, qua mi sistemo qualcosa, va. Che ho lasciato un casotto che stavo saldando poc'anzi, dai. Fai quello che vuoi, già sono in ascolto, poi già entriamo più tardi, dai, perché siamo preoccupati. A dopo, dai. Ehi, hey you. Ok.